perde si porta passione, lui. Ma infatti questa cosa di imparare a nadare non è una cosa che ti va bene, capito? Ci sono altri che fanno in qualche cosa. Perché gli spari veri e propri si fanno il primo dell'anno e basta. Ma come segno di cambio di anno, non si fanno la notte di Natale o mentre va di lì. La notte di Natale non si fa assolutamente niente. Invece molti hanno questa tradizione. Va bene. A me già mi ha fatto di botte. Io mi blindo tutto qua, mi c'è le finestre, le giravici, quando già non si sente neanche un gran facendo. Ma tra lì mi pare che è un bel muro qui. Stava male e non l'ho mai sentito. Chiudo tutto, piantiamo il salone, piano tutto il petto, tutti erano qua e basta. Ma se qua non lo so, vuol dire che sono appeso, gli ho cambiato sulla sala secca. Ma si mangia e si beve, non è tutto il da me, di la cultura. Imbriacati però beh. Come? Imbriacati. Poi Franco abbiamo Villa, beh, a forse pensavo che eri morto. Ce l'ho quasi, ma non mi sono ripreso. Ciao, grazie a tutti. Ciao Luca. Ciao Menda. Adesso aspettano sabato. Sabato. No, lui, io ti ho detto una domenica. Siccome non mi sono apposta la moto zappa, io ce l'ho presa a trullallina. Mi sono dato tutto. Quasi tutto là. No, secondo me tu metto sabato. Sabato. Metto sabato, lui ti chiamo e facciamo quello che devo fare. Prova domenica. Ah, è vero, Lu, mi sono dimenticato, hai ragione. Sei una buona, non due decisioni fra. Certo, un po', dobbiamo un po' riuscire. Ma che dobbiamo buttare a capo, non ha cambiato niente. Lo faccio male, non c'è la buttare a capo. Non è pure la pulizia dei contemporanei la sto facendo. È lunga, è solo buttare a capo. Ciao, ma c'è negato. Vabbè. Non mi gatto. Quello che le tripa lo faccio, cioè faccio la... come cavolo si chiama? La... non so, mi ricordo. Tutte quelle più facili, diciamo, le faccio. La revoltiglia, uscire. Me l'ho messo. Nulla, quello che pensava, so niente. Anzi, io sono un programma. Che adesso l'ho fatto installare, però non riesco più a trovarlo. Di una chat. Vabbè, ripeti qua. E beh, a casa sta a posto. Non mi interessa, siamo in quattro. Cioè? E c'è la vecchia. Ma vero? Dai, stai scherzando. E fra, stai scherzando? Cos'è scherzare? Io ce la faccio a casa già da un mese. Oh, ho fatto veramente tutto. Ho comprato un'altra centraletta nuova. Anziché piccola grande matrimoniale, e quindi dove c'è la radio praticamente è diventata abbastanza mia, e di Anna e l'altra che era la mia volta si è diventata lì di mia socia, l'aria non c'è mai, l'aria sta utilizzando l'altra casa. Traiete. Vabbè, dai, non ce l'hai a casa, la tenete sotto controllo. Ma è un po' più legati, scette. Ma c'è un mio malù. Fai da bravo, tu. Buonasera, dottore. Grazie, dottore. Ancora, dottore, mi manca la laurea. Va bene, vai lui. Bravo. Tu che vai, un anime o pausa. la busso in occhi. Sei disperato, c'è la cagnetta che... Già quando conosce Romeo poi già ripassa tutto. Infatti, Luca, anima lunga, dove sei? Sono a casa, sono passato un attimo. Io lo vedo, congegnare, non ti preoccupare, ammazza. Sì, se sono coperto dal palazzo del mare, come faccio a rimanere forte? Buon 50, sì, so, una attacca mi faccio il lupo. Sotto il palazzo del mare sono, coperto, non ci sono le tende, sono che arrivo così forte. Vabbè, non parliamo del lavoro, siamo diventati tristi. Luca, vabbè, niente, hai mangiato? È buono? Questo non c'è nulla, ma è... vedete se c'era scoppiato il 711 o l'811? 711, no, l'ho già riparato. Davvero, stesso problema? Sì, però... facevo una cosa strana, praticamente rimaneva il display spento e le luci tutte accese. Ecco le travolette anch'io una volta, ho fatto l'auto, la radio, mi si è spento il display e le luci dello smitter e rimaneva acceso. Infatti se ti ricordi te l'avevi preso tu, prima di portarlo via definitivamente, l'avevi preso, l'avevi già riparato. Ma non l'avevo toccata quella sezione, quello era un problema sulla scheda centrale, invece adesso, cioè adesso, prima avevo un problema su una parte dell'alimentazione, gli ho rifatto tutto quello, tutte le risaldature, gli ho rifatto, è tornato perfetto. Il grande radio, quello è 711, 811, grande radio. Ma no, io l'ho fatto nuovamente, ho rispolverato quello che avevo prima, 4,30, sia 80, 4,40, ce l'ho tutte e tre, la linea completa, tutte e tre, e poi per i due uso sempre i due, come quello che manda, per me sono i migliori in assoluto, non ce n'è altre che possano fare, a me soddisfano quelli, mi soddisfano quelli. Gran bella radio. Mentre normalmente ce l'hai sempre, sì. Affa. Studiando quello. Sì, ma ogni tanto io l'accendevo perché mi spostavo giù e lo lasciavo sempre in funzione. Vedevo se queste radio come sono, no? No, poi, vabbè, U e V ce li ho sempre, quelle che sei tu, e poi l'ultimo che ho preso è il 2X5 della IAIS. No, l'ultimo che ho preso è il 7004. Sono arrivato perché ho dovuto aggiungere un'altra scrivania perché non ci stava manco un momento, infatti oggi non c'era poco spazio, la colonnina andava quasi a toccare il monitor del computer, allora mi sono ristretto un po' e le radio le ho messe una sopra l'altra, come avevo prima. Adesso vediamo se faccio gli scompartimenti di nuovo oppure lascio stare così. Vediamo un po'. Allora non è Giovanna, ma quando il debito con il radio, con i bosi, non lo fai fare. Comunque vedrò di organizzarmi questi giorni che sono a casa di mia moglie. Mi metto di qua facendo una prova, visto che ci stanno, intanto sono una, due, potrei mettere tre, però ci stanno. Ci sta una linea completa sotto e con un 4,30 sopra posso mettere gli altri tre radio con la colonnina e l'altra cosa, sì, vediamo. Vediamo. Ok. Che palla, pallina. Cioè non ha Giovanna, un anno fa. Poi oggi sono fatto mezzo di non lo so. Io oggi ho fatto tutto detto, mi sono preparato la motozappa, sono partito da una parte, poi mi si è fermata, poi l'ho fatta ripartire, ne ho fatto un altro pezzo, poi dopo pranzo mi ho mangiato, mi sono ripogliato un'oretta e poi ho ripreso, ho finito alle 5, poi mi sono ricoricato, mi sono rialzato, c'è il ceno, mi guardo la partita e poi quasi entro più tardi. E poi devo cambiare l'antenna, non che mi fido molto con questa, ormai è andata. Parte, non siamo Claudio. Ti parti. Scusate. Buonasera, Chi è Fabrizio? Ho Franco Delta. Franco Delta, cos'è Fabrizio? Cava, sono tu, mi hai ascoltato, dopo una vaglia di tempo. Salvidio, la rimaccia lunga, il movimento, direzione Florinas, coordinate via del Porto Torres. Ciao Salvi, buonasera. Dopo tanto, hai ragione, dopo tanto. Ogni tanto si fa, ogni tanto si spegne. troppi casi di salvi, troppi. Troppi. Mi capito che ho dovuto dare questa cazzo di manto qua per cambiarla. Proviamo, qual è il problema? Non so se la mia è più nuova la tua, e dopo la devi prendere tu. Io ce l'ho già, boh, forse 1, 5, 6, 7 anni, però questa è ancora di Torre Ala. Ah, la mia sono 4 anni qua. 4 anni fa, cioè 4 anni qua, quindi c'è 4 anni la mia. Ma io devo toglierla qua, una tela, ho dovuto fare 5 bande. Ce l'ho già un anno in garage. Mi sono rotto tanto per fare due chiacchiere così con qualcuno qua, il 27 già funziona perfettamente. Non ha la resa che ha questa, però non me la frega niente. Però la uso anche per altre frequenze. Adesso sto usando sempre 10W, 10,40, 10,20, 40, 80. Ho messo quella lunga, poi c'ho l'altra 10 metri dall'altra parte, e due, una X50 e la 510. Se monto quella lì, mi viene anche meglio perché lascio un dipolo, sempre così com'è, e posso fare 20 e 40 con dipolo e 10,80 tutte le guardie con la bosticchia. Va bene. No, aspetta, quale c'è però quella multibanda? Ora qual è la mia? Io ancora non l'ho montata ancora in scatola. Anche la mia, non c'è in scatola, io ho preso quella della ultrabin, quella con gli stili regolabili elettricamente. Ah no, io c'ho quella della pick-up. E vabbè, la monterò un giorno, quando c'ho tempo. E poi anche io devo montare la scaletta. Franco! Oi! Senta uno, ricordami dove che sono le modulazioni avevi tu? Sono dalle parti di... nella strada di Ugini. Nella strada? Di Ugini. La strada di Ugini, capo. Allora, vediamo se mi ascoltate andando in paese. Ma io ti seguo il caso che io non come sto andando a mangiare, tu mi guardo la partita. Quindi ci sentiamo più tardi se ci sia ancora. Capito, Cla? Ci faccio noi, cammina più tranquillo, non ti preoccupare, già ti sento. Siamo a Florina, stiamo variando in America. Ci ne arrivi noi a Florina, se vuol dire che siamo anche la portata a terra. A parte il fatto che non solo ti accompagnate a Florina, Franco, ma ti accompagnassimo a PFUS. Perché ci ho parlato io dalla collinetta lì di PFUS, lui a casa sua. Non ti preoccupare, una zona micidiale. C'è una zona micidiale. Lo puoi sentire bassino rispetto a tanti altri, ma noi siamo tutti vicini in città, ma si pompa, dipende, pompeggia la grande. Sì, fra. No, io ho quella della ultrabin. La ultrabin è quella lunga, 11 metri, da 2 pollici. E c'è lo stilo dentro regolabili banda per banda, capito? Banda per banda, col control box giù. Elettricamente si spostano gli stili interni e ogni volta che tu schiacci la portante si regolano direttamente gli stili. Che figa! Vedi, quella già seria. Bella, sono contento. Quando era monti? Ho un anno e non l'ho presa l'estate scorsa. L'ho presa l'estate scorsa. Poi riferrato, devo fare altri lavori, altre cose, ho lasciato perdere fuori, dovevano fare dei lavori su un interrato e quindi pure ho mollato eccetera. E appena c'è un pochino di tempo meglio, qua c'è la piatti anche di settimana. Ho già deciso, infatti stamattina ero sul già interrato, stavo guardando se il posto è quello, metto il sfido praticamente solo la manta, ma lascio lo stesso tubo e l'attacco lì. L'attacco il cavo e porto giù solo il cavo dell'alimentazione per il control box. Bella, vai guarda, c'è al computer, il cantene ultra B, guarda la verticale, costa 960 euro, una cosa del genere. Il tardi la controllo. Sì. Sì, più tardi la controllo, voglio vedere com'è. Boh, adesso vedo, se ce la faccio io la monto, quella là, se non va bene la butto in terra, la butto in dinara. E lì mi prendo un'altra mano. Intorno ai 100 watt modulati, non di più, lo sto lasciando sempre. 7-8. Non è per niente male, no. L'importante è che mi ascolti tu a me, cappa. Direi, no, sono soddisfatto di questa zona, vabbè, io avrò però un po' più di potenza, però sono soddisfattissimo, ad esempio che micidiale, soprattutto per quelle zone. All'inizio della discesa di Florina, poi non ti sento più giù.